And now listen to some more examples with the verb to take. Prendere. Io prendo un antipasto toscano. Tu prendi il tiramisù. Lei prende la pizza. Lui prende un'insalata mista. Noi prendiamo del salame. Voi prendete del formaggio. Loro prendono del vino rosso.